24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:22, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua in diretta 24 mattino a concludere questa settimana. Siamo anche in diretta su Twitter, @24mattino, ci sono anch'io, @AlinoMilan. Oggi parliamo allora di questa spending review. Alle 8:20 avremo il sottosegretario all'economia Polillo per parlare delle decisioni prese nella notte, i tagli, e poi parleremo anche della vicenda la scuola Diaz di Genova, dopo 11 anni la sentenza che conferma le condanne e, diciamo, decapita, si usa questo termine, tutti i vertici della polizia che sono coinvolti, che dovranno essere sostituiti ora. Ne parleremo e spiegheremo tutto più avanti. Ora andiamo a scoprire le notizie, queste tra l'altro sui giornali in edicola. Giornali che in parte sono anche vecchi, perché nella notte, fino alle 3, alle 4 di notte, ci sono state decisioni all'ultimo momento sulla spending review, però certo qualcosa si può già sapere. Il Sole 24 Ore dedica 20 pagine a questo tema, province dimezzate, salvi i mini ospedali, questo è il titolo d'apertura. Per il Corriere della Sera, subito i tagli, rinvio al 2013 per l'IVA. Repubblica, sanità, no ai tagli degli ospedali. Avevamo scherzato agli ascoltatori ieri parlandone. La Stampa, ospedali e tribunali, ecco i tagli. Libero, tanto monti per nulla. Il Messaggero, ospedali salvi, stretta sugli statali. Il Giornale, paghiamo ancora noi. L'Unità, tagli, scontro sulla sanità. Avvenire, ecco la spesa rivista. Mentre c'è chi sceglie come giornali la vicenda Diaz, Il Fatto Quotidiano, Diaz il massacro, giustizia è fatta, Il Secolo XIX, Diaz decapitata la polizia, Il Manifesto, alta macelleria, questo è il titolo di apertura. Ma voglio partire da due vicende un pochino più leggere, se vogliamo. La prima, il comandante, o comandante, Schettino è libero. Non è più agli arresti domiciliari, ha solo, credo, un obbligo di dimora, a Meta di Sorrento. E sui giornali oggi esce la notizia che c'è un suo memoriale e c'è il contenuto di questo memoriale. Tenetevi forte perché le frasi sono di quelle che vi faranno sobbalzare, ve lo dico, quindi mani aggrappate al volante se state guidando. Concordia, Schettino torna libero, fui guidato da una mano divina. Non ovviamente sullo scoglio, contro lo scoglio, ma il comandante, senza il mio fiuto, sarebbe stata un'ecatombe. Leggo dal Corriere della Sera, pagina 22, così scrive nel suo memoriale, che diventerà forse un libro, è stato il mio fiuto, il mestiere, il saper riconoscere il mare a farmi fare quella sterzata repentina dritta. Nessuno fino a quel momento mi aveva avvisato che avevamo superato il punto di accostamento fissato sulla rotta. Per fortuna ho visto della schiumetta bianca sulla sinistra. È stato un segno che mi ha fatto dare ordine di virare a dritta, per puro istinto. Insomma, scrive Fulvio Buffi, nessun accenno al fatto che il punto di accostata non avrebbe dovuto esserci, non lì almeno. E ancora sentite Schettino, parla di quella virata. In quel momento una mano divina si è sicuramente posata sulla mia testa. Se avessi continuato su quella rotta, avremmo colpito lo scoglio con la prua e sarebbe stata un'ecatombe. Insomma, scrive Buffi, a leggere il memoriale sembra che la tragedia lui l'abbia evitata, non provocata. Infatti scrive, subito dopo l'incidente avrei potuto affermare: ma dove mi avete fatto sbattere? Cosa mi avete fatto combinare? È il comandante, lui. Ma non sono un codardo. In quel momento bisognava essere lucidi. La priorità non era individuare i colpevoli, ma agire senza perdere la calma. Insomma, uno Schettino che praticamente dice: mi hanno fatto andare altri, non si capisce chi, sugli scogli, ma io, grazie a una mano divina e al mio fiuto, al mio mestiere, sono riuscito a evitare un'ecatombe. Sulla Stampa c'è un corollario a questa vicenda, Schettino torna libero, in TV per 50.000 euro, questa sarebbe la base d'asta annunciata dal suo avvocato, una base di offerta intorno ai 50.000 euro, questa è la proposta di un canale televisivo e di un settimanale, non escluso che il prezzo salga con lo share, inevitabile dunque la corsa ad aggiudicarsi l'esclusiva, scrive Grazia Longo. intorno ai 50.000 euro, con l'avvocato che dice inutile che corriate fino a meta di Sorrento, Schettino non uscirà di casa, non parlerà e chiunque andrà rimarrà davanti alla porta. Tradotto, bisogna pagare tutto a un prezzo, anche l'intervista al comandante Schettino, che è tornato libero. La seconda vicenda leggera di cui vorrei parlarvi è, cari amici di Twitter, ieri è esploso l'hashtag, com'è che era, Querelo con Paola, insomma la vicenda di Paola Ferrari. Paola Ferrari, conduttrice a Rai, presa a bersaglio da ironie, a volte anche becere ironie, anche insulti vere e proprie, perché poi c'è di tutto ovviamente che gira su Twitter, ha deciso di querelare Twitter, ma no, non i singoli utenti di Twitter, no? Che spesso si trincerano dietro al fatto, ah beh, ma è qua, è una piattaforma libera in cui si può sfogare le proprie sensazioni, i propri istinti, le proprie battute, si può fare ironia così a 360 gradi. No, vuole querelare proprio la piattaforma, non i singoli utenti, Twitter in quanto piattaforma sociale. E Twitter alla sbarra, titola Libera, e fa un'intervista a Paola Ferrari al Giornale, pagina 23, basta coi villani in rete, ora denuncio Twitter, sono rimasta sbigottita, non credo proprio che ci ripenserò, sto prendendo una decisione coi miei avvocati, il problema è che sui social network esiste un buco legislativo enorme. Mi ha ferito il fatto che abbiano voluto offendermi come donna. Io ho 51 anni, non ho mai fatto niente per nasconderlo. Sono una professionista con 25 anni di impegno, esco da un anno di lavoro ininterrotto, la trasmissione ha avuto successo. Non capisco perché debba essere dileggiata e insultata. Le critiche le accetto, ma non da anonimi maleducati. Ma non crede che la rete si scateni ancora di più? E infatti si è scatenata ieri contro Paola Ferrari. Non mi interessa, so solo che non è giusta questa situazione, che rimanga impunita. Mi insultano solo perché sono una donna e non ho più 20 anni? Un conto sono le critiche, un altro gli insulti che possono leggere tutti, compresi i miei figli adolescenti. Perché decido di querelare Twitter e non i singoli utenti, ma l'intero social network? Perché a me non interessa il singolo insulto, non l'ho mica presa sul personale, il problema è il funzionamento di queste piattaforme che non frena certi atteggiamenti. La domanda finale, ma lei rimarrà su Twitter? Non mi sono posta il problema, su Facebook rimango di sicuro, lo uso moltissimo, sia io che mio marito. Insomma, bersagliata, Paola Ferrari non ce la fa più e annuncia denuncio Twitter. Noi ci sentiamo tra 5 minuti. Le 7:35 minuti. Allora, come detto, troverete tante pagine sui giornali, su Italia, la Spending Review, una maratona notturna, l'ultima agenzia è di qualche minuto fa, con anche conferenza stampa alle 4, alle 5 del mattino, insomma, per i tagli. Quindi i giornali sono andati in stampa e tante cose le hanno. Sul Sole 24 Ore trovate 20 pagine dedicate a questo tema, al tema della Spending Review, con tutto quello che comporta poi nella vita di tutti i giorni e gli italiani. Cerchiamo di capire quali sono gli elementi più importanti. Allora, intanto, le province tornano dimezzate. Il ministro della Funzione Pubblica, Patroni Griffi, ha comunicato nella notte, nel cuore della notte, le province verranno accorpate, rimarranno una cinque, più o meno 50. Se credete, di solito verrebbe la battuta facile, di notte si raccontano le favole o poco prima di andare a dormire. Però, insomma, questa è l'idea. Nei ministeri ci sono circa 7.000 esuberi, è saltato invece il taglio ai mini ospedali, dunque dovrebbero rimanere lì. Sulla salute c'è una mobilitazione da parte di tutte le regioni, i ministeri a dieta, appunto, subito un taglio da 1,5 miliardi. Comunque gli elementi economici annunciati dal Premier Monti sono questi: 4,5 miliardi di risparmio nel 2012, in quello che resta di quest'anno, 10,5 miliardi nel 2013, 11 nel 2014, dunque quanto fanno 21,5? 25 miliardi in tutto. Questi sono quelli annunciati. Non ci sarà l'aumento dell'IVA previsto a ottobre, non ci sarà l'aumento dell'IVA anche per il primo semestre del 2013. Qui si è fermato il Premier Mario Monti. Uno potrebbe tradurla così: il prossimo governo aumenterà l'IVA forse, o sarà costretto a aumentare, cioè noi abbiamo coperto e garantito il non aumento dell'IVA fino al primo semestre del 2013, dunque è slittato questo aumento dell'IVA. Comunque tutti i provvedimenti li vedete dettagliati sul Sole, vediamo qualcosa riguardo appunto agli esuberi degli statali, poi ne parleremo alle 8:20 con il sottosegretario all'economia Polillo. Nei ministeri più di 7.000 esuberi, così titola pagina 8 il Sole 24 Ore, circa 7.000 dipendenti in eccedenza, racconta Giorgio Pogliotti. Per i ministeri è questo l'impatto reale della spending review, che prevede il taglio delle piante organiche del 20% per i dirigenti e il 10% per il resto del personale. Dei 7.247 in sovrannumero, in 293 appartengono all'area dirigenziale, 6.954 sono non dirigenti in servizio, questo secondo i dati del Ministero della Funzione Pubblica. Tra l'altro sugli statali, sui quali si concentra maggiormente la spending review e con anche le proteste dei sindacati, degli statali stessi, a pagina 7 il Corriere della Sera in questa guida ai tagli parla di una buona notizia per i dipendenti pubblici, che è questa: non saranno più obbligati ad andare in vacanza nella settimana di Ferragosto, in quella tra Natale e Capodanno. Delle ferie coatte che erano previste nella prima bozza del decreto della spending review sono state cancellate nell'ultima versione discussa ieri sera. C'è anche il sostanziale rinvio della riforma Fornero delle pensioni, ma le buone notizie finiscono qui, perché in 70 pagine si parla invece della sostanza, cioè il ministeriale potrà essere messo in mobilità obbligatoria, prendere l'80% dello stipendio, molto più basso di quello che porta a casa ogni mese, e anche essere licenziato. Da garantito in tutto e per tutto, diventerà un po' più simile a un lavoratore del settore privato. Insomma, l'inviolabilità per il travet di casa nostra, del posto fisso e dello stipendio fisso, non c'è più. Questa è l'idea della spending review. Che ne pensate? Mi sembra una cosa giusta per non creare appunto i panda pubblici, ma immagino già ovviamente le critiche legittime di chi cerca di mantenere un proprio punto di vista e privilegio. C'è anche un retroscena politico di Francesco Bei su Repubblica, che interpreta quello che è stata la nottata molto dura, molto difficile, con Mario Monti, il premier, che viene definito da Repubblica irritato per la melina, i mille più di così non si può dei ministri di spesa. Alla fine Mario Monti ha dovuto alzare la voce. Non posso accettare veti da parte di nessuno, ogni settore dello Stato è chiamato a contribuire, ha messo in chiaro nella lunga notte del Consiglio dei Ministri. Dunque una notte che è stata molto molto buia e tempestosa, se posso fare questa citazione letteraria, perché effettivamente è stata una notte difficile, alla fine della quale appunto Monti ha detto sono stati fatti questi tagli della spesa. E comunque ripeto, tutti i dettagli settore per settore, sugli immobili, sul pubblico impiego, sulle regioni, sulla sanità, sui tribunali, sulle SPA pubbliche, sulle spese nella pubblica amministrazione, le auto blu, sui beni e servizi, trovate 20 pagine sul Sole 24 Ore, non posso ovviamente stare a dettagliarle tutte, potete leggere tutti i dettagli lì. Il Giornale, per il secondo giorno consecutivo, visto che si parla di spending review, si concentra con Stefano Zurlo sullo stipendio, invece che ieri sul Giornale ha fatto scalpore questa inchiesta, lo stipendio del sovrintendente alla Scala di Milano, Stéphane Lissner, che racconta oggi il Giornale sotto il titolo Pisapia paga i super hotel a Mister Scala, così viene definito. Racconta il Giornale: adesso tutti vogliono sapere, già oggi alle 13 Pisapia incontrerà la CGL, all'ordine del giorno c'è proprio lo stipendio principesco del sovrintendente Stéphane Lissner. Sono 7 anni che è insediato al vertice della Scala, in questi 7 anni, secondo i conti del Giornale, si è speso 1 milione e spiccioli l'anno, circa 7 milioni e passa in 7 anni, una cifra insostenibile e inspiegabile, visto che il predecessore di Lissner, Fontana, aveva una retribuzione annua di 260.000 euro lordi. La media degli altri sovrintendenti italiani oscilla tra i 150 e i 200.000 euro, mentre lui, l'uomo venuto dalla Francia, ha un altro passo. Il suo appannaggio, finora semisconosciuto, sembra quello di un membro della famiglia reale. una base di retribuzione di circa 455.000 euro, poi un incentivo variabile sui 155.000 euro, una lussuosa berlina BMW, l'autista, la casa che pesa sul conto del contribuente per 85.000 euro. E poi poche settimane fa gli è stato rinnovato il contratto e la fondazione presieduta dal sindaco gli ha concesso un premio di 300.000 euro da spalmare su 5 anni. Insomma, conti per il giornale di questi tempi assolutamente insostenibili. Questo per quel che riguarda i tagli. Noi ci concentreremo anche sull'altro fatto del giorno, quello di cronaca, vale a dire la sentenza della Corte di Cassazione che ha messo la parola fine dopo 11 anni all'irruzione della polizia nella scuola Diaz a Genova durante il G8. Le condanne sono definitive, nessuno andrà in galera, c'è l'indulto, alcune condanne sono state prescritte, c'è peraltro il ricorso annunciato dai legali dei poliziotti condannati alla Corte di Strasburgo. Sta di fatto che il verdetto è definitivo. E è un verdetto che comporta anche l'interdizione dai pubblici uffici, il che vuol dire che i vertici della polizia, che nel frattempo le persone che al G8, per quel G8 sono state condannate, nel frattempo hanno fatto carriera all'interno della polizia e sono posizioni apicali, ora dovranno essere sostituiti. Per questo il titolo del Secolo XIX quotidiano di Genova è questo: Diaz decapitata la polizia. Anche Marco Imarisio, a pagina 12 del Corriere della Sera, le condanne al vertice della polizia. Adesso la notte della Diaz è davvero finita. All'uscita dal Palazzo di Cassazione scendono le scale due gruppi di persone divise da stati d'animo opposti e da 11 anni d'attesa. Da una parte si abbracciano, gioiscono le vittime di quella sciagurata irruzione nella scuola, come Sara Bartesaghi, che da domani forse potrà dimenticare le manganellate, il dolore, il senso di ingiustizia che l'avevano portata a vivere lontano dall'Italia. Dall'altro i volti affranti di colleghi, amici e funzionari di polizia condannati in modo definitivo, gente che ha sbagliato tutto prima, durante e dopo quell'irruzione nella scuola, ma che ha fatto anche cose importanti per questo paese. E infatti Giovanni Bianconi racconta sotto: è una squadra d'élite che ha preso poi negli anni boss terroristi, cancellata di un colpo. Per esempio Francesco Gratteri, all'epoca direttore del Servizio Centrale Operativo, poi a capo della Direzione Centrale Anticrimine. Giovanni Luperi, 11 anni fa numero 2 della Polizia di Prevenzione, oggi in forza al Servizio Segreto Interno. Gilberto Caldarozzi, allora vice capo dello SCO, che in seguito ha diretto. Sono uomini appunto che hanno arrestato Bernardo Provenzano. Sono uomini, racconta per esempio il Secolo XIX in prima pagina. Uno di questi è colui che ha annunciato qualche giorno fa l'arresto di Giovanni Vantaggiato, cioè l'uomo che ha colpito a Brindisi con la bomba. L'uomo che 3 settimane fa ha annunciato alle televisioni di mezzo mondo l'arresto del killer di Brindisi è un pregiudicato, non potrà continuare a fare il poliziotto. È Francesco Gratteri, volto noto nei giorni dell'attentato alla Morvillo Falcone, dirigente della divisione centrale anticrimine, un super funzionario che prima del secondo grado aveva fatto un pensierino a diventarne il vertice assoluto della polizia di questo paese. Ora è stato condannato in via definitiva per la vicenda Diaz. Su questo parla in maniera chiara il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri. Dalla sua intervista ripartiremo tra poco dopo le informazioni sul traffico, visto che lei dice: la sentenza c'è e ora è giusto che i responsabili paghino. Eccoci qui allora, il ministro all'interno Anna Maria Cancellieri, intervistata da Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, dice: mi aspettavo un verdetto del genere, da quando sono qui non ho mai fatto previsioni. Il G8 è una pagina dolorosa per la polizia, questo mi ferisce. Ho visto come tutte le immagini quel che è successo all'interno della Diaz e posso dire che non condivido nulla di quell'operazione. Di fronte a errori gravi è giusto che i responsabili subiscano le conseguenze. Riguardo al fatto che quindi andranno sostituiti uomini al vertice ora della polizia, dice la Cancellieri: è il prezzo altissimo che paghiamo, perdiamo alcuni nostri uomini migliori, sarà difficile sostituire un investigatore come Francesco Gratteri, che ora è il direttore centrale. Ho rammarico per mandar via Gilberto Caldarozzi, capo dello SCO. Loro sono quelli che hanno preso Bernardo Provenzano. Grazie a loro abbiamo arrestato l'attentatore di Brindisi. Ma mi rimetto alla sentenza. I cittadini devono sapere che la polizia è un'istituzione sana che ha saputo fare tesoro degli errori, cambiare le regole dell'ordine pubblico. riguardo ai rappresentanti che erano in piazza a Genova, ora chiedono le scuse dello Stato, e alla domanda è stato un errore non farle prima, risponde il ministro dell'Interno: non giudico i miei predecessori, tantomeno voglio criticare ciò che è stato fatto, perché bisogna tener conto del momento storico e politico. Io posso dire come ho deciso di comportarmi quando ho accettato la nomina e penso che sia fondamentale assumersi le proprie responsabilità. Mi sembra di averlo dimostrato anche in alcuni episodi recenti, e si riferisce ai poliziotti che hanno insultato la madre di Federico Aldrovandi, l'uomo, il ragazzo che è rimasto ucciso durante un fermo di polizia. E su questo ribadisce Anna Maria Cancellieri: so che Manganelli, capo della polizia, ha scritto una lettera alla mamma di Federico, nei prossimi giorni chiederò anch'io di poterla incontrare, voglio farle sapere che noi siamo con lei e voglio spiegarle che la polizia è un'altra cosa. Insomma, ne parleremo alle 8.30 di questa vicenda. Notizie della politica. Oh, dobbiamo fare un aggiornamento positivo. Pare che il dado sia tratto. I fondi ai partiti sono dimezzati e già da quest'anno il dimezzamento potrà essere dirottato alle vittime del terremoto in Emilia per la ricostruzione, ma non solo, anche per le aree del Messinese flagellate dalle alluvioni, anche alle Cinque Terre flagellate dalle alluvioni. Sisma per le case, rimborsi fino all'80% dei lavori. Questo è il titolo dell'articolo a pagina 9 del Corriere di Dino Martirano. D'ora in poi i partiti potranno contare su un finanziamento pubblico dimezzato e le risorse così risparmiate nel 2012 e l'anno prossimo andranno a finanziare la ricostruzione delle aree colpite dalle calamità naturali dopo il 2009. Questa finalmente la buona notizia. Si è conclusa anche la telenovela Rai con le nomine nel CDA ieri mattina. Tra l'altro Monti fa sapere Repubblica: cala la scure sul consiglio, decurtati gli stipendi, via le auto blu, pagina 15 di Repubblica. La spending review della Rai è già cominciata, via l'auto blu 7 giorni su 7, abolite le carte di credito, stop ai distacchi interni e gli assistenti portati da fuori, fine delle spese di rappresentanza, stipendio base del consigliere decurtato del 30%, passa da 98 a 65 mila euro circa. Le deleghe lo faranno lievitare un po', ma il punto di partenza si riduce drasticamente. Queste le prime mosse del tesoro, vale a dire l'azionista di Viale Mazzini. Oh! Bene, vedete che, no? Qualcosa si muove, eppur si muove. A proposito di TV, Michele Santoro, che è andato alla 7, fa un'intervista al Fatto Quotidiano, il giornale che più lo segue in tutte le sue vicende. Carlo Teccelo, intervista pagina 4 e 5, i padroni restiamo noi. Questo è il titolo dell'intervista. In realtà c'è un po' una mobilitazione anche del popolo di Santoro, come fa sapere sia il giornale che Libero. Cioè la critica a dire: ma come, ti abbiamo dato 10 euro per servizio pubblico sulla piattaforma multimediale, Sky, eccetera, e adesso questi soldi dove vanno? Santoro tranquillizza tutti, dice: queste risorse restano nel progetto sociale servizio pubblico che a luglio darà un premio ai giovani reporter, avrà uno spazio sulla 7, avrà un sito operativo, farà documentari, mi auguro anche film. La rivoluzione non era andare sulla piccola TV locale, ma conquistare l'autonomia. Noi siamo una fabbrica culturale e un movimento che vuole riformare la televisione. Così Michele Santoro. Devo dare due notizie di chiusura. Una di cronaca che mi ha molto colpito sul Quotidiano Nazionale: spara e ferisce i ladri, è stato condannato a risarcirli. Un imprenditore di Vicenza, accusato e condannato per eccesso di legittima difesa, dovrà risarcire con 120.000 euro due rom entrati per rubare cavi di rame nel cantiere in un deposito di ferri vecchi nel 2006. Dovrà dare 100.000 euro a Blue Health, 33 anni, accampato a Malo, colpito da 6 proiettili alle spalle e alle braccia, e 20.000 euro a Chris Caris, 30 anni, di Piove Nero Rocchette, fu raggiunto da 9 colpi all'addome. Lui dice: ero esasperato, oggi certo non lo rifarei, mi spiace per quel che è successo, volevo solo difendere la mia roba, la mia proprietà. E c'è la solidarietà del governatore del Veneto Luca Zaia, che dice: il messaggio che deriva è che da oggi i ladri possono fare quello che vogliono e possono stare tranquilli. Sono le polemiche legate sempre a questo tipo di notizie. Notizia invece positiva dal calcio, finalmente era ora, infatti titola la Gazzetta, anche il calcio arriva e sbarca nel 2012, come tutti gli altri sport ormai al mondo, arriva la tecnologia per vedere se un pallone è entrato in porta oppure no. Sudori freddi di Buffon si registrano a Torino. Allora, nella notte c'è stato la notte lunga sulla spending review, e quindi di tutte le novità davvero molto attuali ne vogliamo parlare con il sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo, che saluto, buongiorno sottosegretario. Buongiorno. Senta, Monti ha annunciato 4 miliardi e mezzo nel 2012, 10 e mezzo nel 2013, 11 nel 2014, insomma 25 miliardi totali, ma con una spesa pubblica da 800 miliardi non è un po' pochino, non sono taglietti questa spending review? No, sono all'inizio di un processo, perché la revisione della spesa è una cosa completamente diversa dalle manovre alle quali siamo abituati purtroppo degli anni passati. È un processo che mira a una progressiva razionalizzazione con tagli, diciamo, delle spese ridondanti, processi di ristrutturazioni e di conseguenza le cifre sono piccole, sono piccoli passi destinati a implementarsi nel corso del tempo se il processo di riorganizzazione, come speriamo, darà i suoi frutti. Slitta per il momento l'aumento dell'IVA, però finora è scongiurato fino al giugno del 2013, una buona notizia secondo lei, ma che nasconde il fatto che il prossimo governo invece dovrà mettere mano a questo aumento? Ma guardi, su questo come è stata presentata, io adesso non ho assistito ai lavori del Consiglio, quindi non so se questo fatto del termine slittamento è una libera interpretazione della stampa oppure c'è un documento ufficiale che lo supporta. Non c'è uno slittamento dell'aumento, l'aumento per il momento non c'è, punto. Vedremo nel 2013 quello che succede. Cioè, mi pare difficile. Ma no, questo sì, non c'è effettivamente il termine slittamento. Il Presidente del Consiglio però ha detto che è scongiurato l'aumento dell'IVA fino a giugno 2013. Nel senso che noi abbiamo coperto quello che dovevamo coprire fino a quella data, poi nel 2013 si vedrà. Cioè, non, sembra se non ho capito che sia una decisione già presa e che abbiamo quasi posticipata nel tempo. No, la decisione dell'aumento dell'IVA dovrà essere presa, per il momento non c'è. Poi quando arriveremo al punto di dover rifare i conti come nel 2013, vedremo. Si vedrà. Perché nel 2013 può succedere di tutto. Senta, invece l'accorpamento delle province è rispuntato nella notte. Su questo è un po' un tiremolla che gli italiani francamente capiscono poco. Ora dovremmo accorparle e arrivare a 50, ma davvero ce la faremo? Ma sull'aumento delle province c'è un problema serio, perché quando si pensa che, innanzitutto, come sapete, le province sono in Costituzione, quindi già modificare un precetto costituzionale è meno semplice del previsto. Secondo elemento è che le stesse province non è che si tagliano e all'improvviso c'è un risparmio, come spesso si sente dire, di 15 miliardi di euro, perché il problema si tratta di trasferire le funzioni che oggi sono assolte dalle province ad altre strutture dello Stato, e quindi questo richiede anche qui un processo di riorganizzazione, perché un conto per esempio sono le regioni in cui ci sono le città metropolitane, prendiamo la città di Roma, no? In effetti la provincia di Roma con Roma città metropolitana si giustifica poco, però questo significa un disegno di modifica istituzionale e organizzativa che richiede un certo tempo, quindi è difficile farlo con un tratto di penna. Però possiamo sperare che questo accorpamento porti a una riduzione, perché sa, poi le lobby scendono sempre in campo e fanno il loro lavoro, però rischiano di vanificare. Stiamo in Senato approvando un provvedimento che riguarda la riorganizzazione delle autonomie locali. Io credo che in quella sede, che c'è un profilo, un disegno di carattere istituzionale, appena sarà approvato dalla Camera e dal Senato, sarà una piattaforma di base su cui poi poter operare i successivi aggiustamenti che presuppongono appunto i tagli di enti arrivati a quel punto divenuti del tutto inutili. Sottosegretario, le faccio questa domanda diretta, si leggono anche qui cifre fuori fino a 30.000 statali grazie alla mobilità, 80% di stipendio base, e secondo lei quanti sono gli statali che si può, lo so è una parola brutta dire, in esubero, di cui si potrebbe anche fare a meno? Ci sono dei dati Istat che sono assolutamente impressionanti per la realtà del paese. Noi abbiamo più un dipendente pubblico ogni 2,7 dipendenti privati. Hai capito? Lecce, che è una cifra impressionante, insomma. Negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, i dipendenti pubblici sono aumentati di circa 1 milione. Come facciamo? Cioè, non... La norma della progressiva riduzione è una norma di carattere programmatica. Anche qui non è che si può prendere l'accetta e dire da un giorno all'altro siete fuori. Bisogna progressivamente, per esempio, ridurre progressivamente le piante organiche, che all'inizio danno poco, no? Però danno molto nel corso degli anni, perché se si riducono le piante organiche significa impedire la possibilità che quando un dipendente pubblico va in pensione possa essere rimpiazzato. Una parte di questi dipendenti che andranno in pensione verranno lì. La linea, il cellulare non ci assiste più, sottosegretario, ci sente? La linea, il sottosegretario è caduta. Vediamo se riusciamo a recuperarlo per quel che riguarda ancora la domanda sugli statali. Poi sapete, il sottosegretario Polillo è anche colui che ha detto bisogna lavorare una settimana in più. Vediamo se riusciamo a recuperarlo entro un minuto, altrimenti dobbiamo andare in pubblicità, perché i tempi sono serrati, serratissimi, non si può sgarrare di mezzo secondo. Niente, l'abbiamo perduto, la linea non ci assiste più. Allora, sulla questione degli statali, insomma, ci lasciamo con questa incognita alle 8:27 minuti. Comunque il sottosegretario Polillo, certo, qualcosa riguardo alle province, agli altri temi, all'accorpamento, allo slittamento dell'IVA, che non è uno slittamento, ma per il momento non c'è l'aumento dell'IVA fino a giugno 2013, e poi si vedrà. Ecco, l'abbiamo recuperato, sottosegretario, abbiamo ancora 2 minuti, l'abbiamo recuperata. No, dicevo, rispetto a quel termine che lei ci ha dato, il rapporto 1-2-7, pubblico per ogni 2,7, quale sarebbe il rapporto ideale secondo lei per una pubblica amministrazione efficiente? Senza adesso, i rapporti ideali non esistono, insomma, dico che è abnorme la situazione, perché questo significa che abbiamo pesa, diciamo, sul surplus prodotto dal settore privato una cifra enorme che viene destinata a impieghi che saranno pure utili, ma come dicevano i vecchi economisti, sono lavori, per quanto si possa dire, di carattere improduttivo da un punto di vista tecnico e non nessun giudizio di valore. Certo. Ma quella cifra che si legge sui giornali, fino a 30.000 statali in esubero, è una cifra verosimile? Tenga conto che se noi stiamo parlando di qualche cosa come 4-5.000 lavoratori nel pubblico impiego, quindi se si faccia il calcolo, se si parla di un 10% come programmatico, arriviamo più o meno a quella cifra, anche quella cifra, no? Certo, sì, anche qualcosa di più, 4, fino anche 45. Non volevo dirlo perché sennò poi mi accusano che... Ma voglio dire... Cioè, fino a 10%, in esubero. I conti si fanno facilmente. Senta, poi non sarà un 10%, ma sarà un po' modulato, poi non prenderà tutti i settori, ne prenderà alcuni ed altri, per esempio il settore del contrasto al crimine non verrà toccato. Insomma, essendo una norma programmatica, sarà una norma poi che dovrà essere applicata con un minimo di razionalità. Un'ultima cosa, sottosegretario, lei è ancora convinto della questione che l'ha portata all'Unione della Cronaca, che bisogna lavorare di più, tagliare una settimana di ferie agli italiani? Guardi, tagliare una settimana di ferie era soltanto una parola d'ordine, insomma, però lavorare di più sì. Lavorare di più no. Guardi, noi alla fine stiamo ripetendo, non dicendolo, l'esperimento che fece Jospin in Francia quando portò l'ora settimanale a 35 ore, fu un disastro, insomma. Quindi dobbiamo essere consapevoli che siamo in una sorta di guerra, perché quello che stiamo vivendo è una guerra, anche se non ci sono carri armati e missili schierati, però è una guerra finanziaria. In una guerra finanziaria la prima cosa da fare è non perdere la guerra e fare tutto il possibile, se no sono dolori. Perché molti italiani dicono non trovo il lavoro, più che vorrei magari lavorare di più, ma il lavoro non lo trovo. Sì, ma se si comincia a parlare di questa disponibilità, c'è una sollecitazione anche agli imprenditori a riprendere gli investimenti, a rischiare sul futuro del paese. Se invece si rimane tutti immobili, alla fine il paese regredisce. Quindi è più che altro avere la consapevolezza a livello complessivo che una certa fase dello sviluppo storico del nostro paese è finito per sempre e che dobbiamo ricostruire le basi dell'accumulazione di ricchezze e di capitale. Se c'è questa disponibilità e questa consapevolezza, siamo un passo molto molto in avanti, perché potremo contare su una voglia di partecipazione. Poi, una volta rimesso in moto lo sviluppo, i conti li faremo dopo, allora ti parleremo di ridistribuzione di ricchezza, di ricostruzione del welfare. Sì. Ma intanto dobbiamo ricostruire le basi economiche del paese. Dice vincere questa guerra. Intanto la ringrazio, buona giornata, sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo, per essere stato con noi. Dopo la pubblicità e il meteo invece parleremo del fatto di cronaca che dà l'apertura per molti giornali, vale a dire la sentenza definitiva della Cassazione per le violenze, l'irruzione della polizia nella scuola Diaz. Siamo al G8 di Genova di 11 anni fa, 2001. Ieri la Cassazione ha confermato tutte le condanne dell'appello per l'irruzione della polizia. 2001, G8 di Genova, l'irruzione della scuola Diaz con le persone che furono poi fermate al carcere di Bolzaneto, tenute per 3 giorni senza avvocati, poi rilasciate, insomma una pagina che anche il ministro dell'interno Cancellieri oggi in un'intervista al Corriere della Sera dice: una pagina che non ho condiviso, di fronte a quell'operazione non ho condiviso nulla, non condivido nulla di quello che fu fatto lì alla Diaz, e ora i responsabili prenderemo le nostre decisioni, perché le persone condannate, molte sono ora alle posizioni apicali della polizia, e visto che è scattata l'interdizione dai pubblici uffici, come scrive il Secolo XIX, è stata decapitata la polizia, nel senso dovranno essere sostituiti persone che nel frattempo sono persone che hanno raggiunto posizioni di vertice all'interno della Polizia di Stato. Ne vogliamo parlare con l'onorevole Alfredo Mantovano del Popolo della Libertà, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Lei è stato più volte sottosegretario anche all'interno nei governi precedenti. E saluto anche Marco Poggi. Buongiorno Poggi e benvenuto. Buongiorno ben a voi. Marco Poggi è uno dei testimoni, dei teste chiave, possiamo dirlo, perché fu infermiere penitenziario al carcere di Bolzaneto, testimone insomma di quelle violenze. Lei Poggi varie volte ha raccontato... Non, per la verità non varie volte, perché so che le comporta sempre molta, molta fatica e molta sofferenza, ma che ne pensa intanto di quella sentenza, della sentenza di ieri? Io penso che la democrazia ha vinto, ma al 50%. Dal punto di vista penale nulla da eccepire, avrei comunque accettato come cittadino di una repubblica in cui credo qualsiasi verdetto. Però come cittadino credo che la democrazia non sia compiuta, perché a questo punto dovrebbero pagare anche i responsabili politici. Anche loro dovrebbero andare a casa, a partire proprio dall'onorevole Mantovano, che insieme a tutto il governo, tutto quanto, hanno sempre depistato, sono sempre stati omertosi, non hanno mai cercato la verità, non la vendetta come qualcuno diceva per quello che noi sostenevamo, cioè nel senso che non mi dimenticherò mai che con la collaborazione del centro-sinistra è stata secondo me la prima prova di una coalizione strana che adesso è avvenuta. Nessuno ha mai voluto una commissione d'inchiesta, hanno fatto una commissione di indagine veloce, non esaustiva, dove è stato detto nulla è successo, andiamo avanti, siamo bravi. Però un attimo, perché lei, adesso farò replicare Mantovano, perché lei ha detto anche delle parole pesanti, depistare è un'accusa molto grave dal punto di vista politico. Prima però che Mantovano replichi su questo, lei che cosa vide quei giorni a Bolzaneto quando le persone prelevate dalla Diaz furono portate lì? Allora, dal punto di vista penale ho visto solo percosse, ho visto solo insulti di leggi, dal punto di vista morale ho visto anche la tortura, non posso dire penale perché in Italia ancora oggi sfuggiamo alla responsabilità di fare una legge sulla tortura. Sul depistaggio lo dico nel senso che mi riferivo al fatto delle Molotov, insomma. Non che voglio dire però no, che le Molotov che furono portate, però insomma in questo caso depistaggio della politica, sì, cosa sì, c'entra? Beh, certo che, ma queste sono cose che non è che le dico io che sono una persona qualunque, le dicono i fatti, le dicono, e a Bolzaneto è successo di tutto di più. Io mi auguro che anche a Bolzaneto ci sia una sentenza definitiva della Cassazione che porti fuori certi personaggi dal loro ruolo operativo nel pubblico, penso ad esempio ai medici. non è ancora una sentenza definitiva, ma io comunque ho visto quello che è successo. Io la sentenza dal punto di vista morale, soprattutto umano e anche professionale, l'ho già emessa. Perché la sentenza che... No, certo, perché lei era lì, dice: io quello che ho visto, certo, non aspetto una sentenza per confermare quello che i miei occhi hanno visto in quei giorni. Senta, onorevole Mantovano, intanto vuole rispondere a questa accusa, insomma, di dire la politica in questi anni non ha fatto nulla. Voi non vi rimproverate nulla, lei non si rimprovera nulla come esponente politico di tutti questi anni in attesa della sentenza definitiva? Ma guardi, io pensavo di dover partecipare ad un confronto civile, aspro ma civile. Ho ricevuto delle accuse precise, nominativamente e con delle parole pesanti, per cui a questo signore che non ho il piacere di conoscere io non devo rispondere in trasmissione. Risponderò dopo aver richiesto la registrazione della trasmissione stessa, querelandolo, perché l'unica parola che può essere detta di fronte a cose così gravi che sono state rivolte alla mia persona la deve dare l'autorità giudiziaria, per cui preannuncio querela nei confronti di questo signore e non credo che si possa stabilire un confronto dialettico, ripeto, anche aspro ma rispettoso delle persone, sì, quando vengo accusato di depistaggio e ma di... Io guardi, onorevole Mantovano, la precisazione che ha fatto, non lo devo difendere, la preciserà poi davanti la precisazione sulle Molotov, effettivamente... Le dico anche con molta franchezza che se il seguito della discussione deve essere all'insegna di come si è aperto, perlomeno nei miei confronti, per me la trasmissione finisce no, qui. No, ma guardi, non, assolutamente, onorevole. Poi se lei intende fare i passi che vuole fare, non... No, io ho il dovere di farlo, va bene. Effettivamente... allora, se non la mettiamo su questo piano, lei impedisca di commettere reati a chi li ha già commessi. Io sono intervenuto dicendo depistaggio è una parola molto grave, non è che posso impedire E ha avuto la conferma di un'accusa che è stata rivolta non alla politica in generale come si fa spesso, ma è stata rivolta anche alla mia persona. Perfetto, ma io non è che posso, nel momento in cui uno interviene in diretta, non è che posso prevedere cosa dice. E ho detto che è una cosa effettivamente molto grave, come ho detto anch'io, è un'accusa grave e lei dice intende procedere penalmente nei confronti di Marco Poggi. Va bene, però se è possibile adesso uscire, chiudere questa parentesi, le chiedo invece io se politicamente non si sente responsabile, lei come parte dei governi precedenti, per il fatto per esempio che i vertici della polizia nel frattempo hanno scalato posizioni e si trovano ora in situazioni apicali, creando anche un problema oggettivo nel momento in cui bisognerà sostituirli, immagino. Allora, guardi, premesso che io ho iniziato a fare sottosegretario all'interno un mese prima che accadesse il G8 e ho ricevuto la delega alla pubblica sicurezza 3 mesi dopo, questo perché sia chiaro il livello di responsabilità. Poco più di un mese fa tutti siamo rimasti sconvolti da ciò che è accaduto davanti alla scuola Falcone Morvillo di Brindisi, e cioè da quell'attentato così grave durante il quale è morta una ragazza di 16 anni e altre sono rimaste gravemente ferite. Quella vicenda è stata risolta, perlomeno allo stato degli atti, dall'autorità giudiziaria, con l'apporto determinante che è stato riconosciuto anche nel momento in cui la prima fase dell'indagine si è chiusa parlando con i giornalisti, grazie, dicevo, all'appoggio determinante di due persone che si chiamano Francesco Gratteri, capo della Direzione Anticrimine, e il dottor Caldarozzi, capo del Servizio Centrale Operativo, per cui se andiamo a cercare... Che entrambi condannati per questa vicenda della Diaz. Esatto. Allora, in questi 11 anni intanto è cambiato il mondo. La Polizia di Stato nel suo insieme e tutto il sistema sicurezza hanno fatto tesoro di una vicenda che, se è caduta sotto la sanzione di una sentenza definitiva, va accettata per la definizione che ha avuto senza tante discussioni. Ma già dai mesi successivi, e qui c'è una responsabilità politica, l'assetto dell'ordine pubblico, ma c'è anche un grande senso di responsabilità di tutti gli attori istituzionali, dall'allora capo della polizia, a tutti coloro che hanno collaborato, già dai mesi successivi la trattazione delle questioni di ordine pubblico ha subito una virata significativa. Appena un anno dopo il G8 di Genova a Firenze, vi è stato un altro evento molto grande, molto coinvolgente, il Global Social Forum. Ricorderemo tutti all'epoca la polemica sulla stessa possibilità di tenere questo evento. Oriana Fallaci usò parole di fuoco contro l'allora ministro dell'interno Pisano. Eppure le cose sono andate diversamente. È stata istituita una scuola che si occupa specificamente della formazione dell'ordine pubblico e poi ci sono state... Cioè, le cose, dice, sono cambiate da allora, però mi faccia fare, devo dare le informazioni sul traffico, poi rientriamo, perché il tema è questo, dice, forse la colpa è stata, però se uno ha sbagliato, e questo ci sono una sentenza oggi della Cassazione che lo dice, queste persone forse non dovevano essere promosse prima, questa è una posizione. Marco Poggi, io vorrei uscire da questa vicenda personale, che insomma siamo partiti, si può dire, con il piede sbagliato. Vuole dire qualcosa? No, sul fatto... No, certo che voglio dire qualcosa. Sì. Innanzitutto chiedere scusa all'onorevole Mantovano, non tanto perché ho paura della querela, perché io intendevo solamente parlarne in accuse di tipo politico. Io quando ho parlato di depistaggio mi riferivo solo all'episodio alle Molotov, sulle quali la politica non c'entra nulla. Mantovano, le ho detto così, che i politici devono andare a casa, ma non nel senso, perché come cittadino che ho seguito la vicenda, alcune situazioni, ad esempio, perché nessuno ha mai voluto la commissione d'inchiesta. Per il resto chiedo sinceramente scusa all'onorevole Mantovano. Spero che onorevole Mantovano queste scuse, come esponente politico, ci mancherebbe altro. Spero che questo basti. Insomma, si è espresso male, il depistaggio riferito alla questione delle Molotov, non che lei abbia depistato chissà cosa con telefonate eccetera, onorevole. Poi spero che queste scuse le bastino. Uno in diretta a volte si esprime così, però insomma poi decida da lei. Poggi, a lei che effetto fa vedere che queste persone, dice l'onorevole Mantovano, sono le persone che hanno anche sono ai vertici, persone che hanno preso Bernardo Provenzano, per esempio, persone che hanno risolto la questione di Brindisi, cioè persone che sono, anche lo stesso ministro Cancellieri oggi dice, mi dispiacerà tantissimo privarmi di persone che sono eccellenti nel ruolo che svolgono tutti i giorni, però c'è questa macchia, se vogliamo, della Diaz. Lei come risponde, Poggi? Che dice? Ma io dico certamente sì, che sono persone che non si possono accusare per quello che non hanno fatto. Se devono avere un plauso, è giusto che abbiano un plauso, però se l'errore c'è stato e la legge ha stabilito che c'è stata, cioè una persona, un chirurgo a volte sbaglia un'operazione, ma quando la sbaglia paga penalmente e amministrativamente. Ma lì, secondo spiace lei, anche a me, cosa crede? Spiace anche a me, perché voglio dire, sono un cittadino. Certe persone sappiamo cosa hanno fatto nella loro vita, non hanno fatto solo la Diaz, però credo che giustizia voglia che la giustizia stessa, anche se è un... Ma lei quei giorni cos'è che vide? Cioè cos'è che scattò in negativo, ovviamente, in quei giorni? Cioè un impazzimento generale, una situazione fuori controllo? Ma sì, tutta una situazione che nessuno, secondo me, ma voglio dire, almeno io parlo di Bolzaneto, della Diaz, sì, conosco meno, tutto è sfuggito di mano, però la sensazione era netta, percepita, che comunque se anche tutto era sfuggito di mano, nessuno ha cercato di riportare i canoni previsti dall'ordinamento penitenziario, da come si deve trattare delle persone in qualche modo fermate o arrestate. Lì c'è stata violenza gratuita, c'è stato dileggio, c'è stato di tutto e di più, e questo non lo dice Marco Poggi, che lo ha visto, ma lo dice una sentenza. A questo punto lo dice anche la Cassazione. Onorevole Mantovano, lei dice persone eccellenti, e questo è confermato dal ministro Cancellieri, sono quelle che sono state condannate. Però che possiamo fare? Possiamo per questo perdonare, se vogliamo, quella macchia della Diaz a queste persone, perché poi hanno dimostrato grandissima efficienza? Guardi, qui ci sono due dati obiettivi. Il primo è la sentenza, che è definitiva e che dice determinate cose. Il secondo è che il sistema sicurezza ha le spalle sufficientemente larghe anche per assorbire questa sentenza, ma non sarà facile, perché professionalità di questo tipo non si improvvisano, come i risultati che hanno concorso a raggiungere positivamente attestano e sono sotto gli occhi di tutti. Rispondo a una domanda che mi ha fatto in precedenza, perché sono stata in servizio fino a questo momento? Ma perché c'è un principio fondamentale nella nostra Costituzione, che è quello di non colpevolezza, e che vale per i poliziotti come vale anche per i magistrati. Quanti magistrati oggi amministrano giustizia pur avendo sul loro capo una sentenza non definitiva, che magari nel momento in cui diventerà tale, al di là delle determinazioni intermedie del CSM, però comporterà la loro estromissione dal servizio? Questa è la logica del sistema, e da un certo punto di vista meno male che queste persone comunque per tutti questi anni hanno potuto lavorare, perché probabilmente alcuni risultati non sarebbero stati ora raggiunti. Però che fare? Ora però vanno tolte dal servizio se si applica la sentenza. Oggi andranno sostituite, non sarà facile, però io vorrei spersonalizzare se possibile il discorso e guardare oltre che al passato, che è ormai consacrato in modo definitivo e sanzionato in modo definitivo dalla sentenza, al presente e al futuro. E quello che si può dire è che mentre nel 2001 si era agli inizi di un certo modo di stare in piazza da parte della protesta organizzata, soprattutto di quella più estrema, più radicale, e questo ha spiazzato tutti, io non voglio giustificare, voglio semplicemente contestualizzare. Le scene di Genova sono state precedute qualche mese prima da scene non dissimili accadute a Napoli, se vogliamo stare solo in Italia, e a Seattle, se vogliamo andare oltre confine. Ma poi dopo tutti i sistemi di sicurezza dei paesi democratici hanno preso delle contromisure, e la prima di queste è dotarsi di una formazione che tenesse il più possibile un punto di equilibrio, sempre difficile quando si è sulla piazza, tra la garanzia dell'ordine pubblico e il rispetto dei diritti della sicurezza. Io credo che l'immagine che oggi vale la pena aver presente proprio per attestare tutti i progressi che sono fatti è quella del carabiniere che viene provocato anche sul piano strettamente personale dal notar e non reagisce. Non onorevole, io ho 30 secondi. Oggi il ministro dell'Interno in questa intervista al Corriere dice: io non condivido nulla di questa operazione della Diaz, mai condiviso. Lei non sente che ci sia una responsabilità politica invece dei passati governi, anche sua, di non avere mai comunque detto chiaramente una frase del genere? Cioè fu sbagliata quell'operazione, lei oggi lo può dire? Ma che sia sbagliata è fuori di ogni dubbio, ma lo dice oggi il ministro Cancellieri, ma è scritto nella sentenza ed è scritto prima ancora nei fatti, quindi diciamo non è una scoperta, è un accompagnare la sentenza con un'ulteriore presa di posizione di carattere istituzionale che fa onore a chi l'ha presa, ma non rappresenta una novità. Mi fermo qui e vi ringrazio, spero che si sia ricomposta onorevole Mantovano un po' la vicenda, però mi faccia sapere. Ringrazio sia lei, ringrazio Marco Poggi, voglio ricordare infermiere penitenziario del carcere di Bolzaneto a quell'epoca. Ci seguite anche su Twitter se volete @24mattino oppure @AlinoMilan. Sono io, un ringraziamento a Alessandro Longoni, là in redazione con Carmelo Lauricella che è in regia, e che dire, ci ritroviamo lunedì. Domani ci riposiamo un attimino.